Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E così ogni mattina che passo davanti a quella barca, a non solo aria, mi immagino al suo timone, mentre affronto gli oceani. Proprio io che non capisco niente di vela o di barca in genere. Arrivavo in ufficio sempre contento, pensando che, comunque anche non solo aria, aveva avuto la sua carriera alle spalle. Chissà quanti viaggi e in quanti luoghi sarà stata. Ora invece è lì, anche lei come me, ferma, immobile. Mi chiamo Otello, vivo in provincia di Lecce, sono un poliziotto. Ho due bambine e ho 48 anni. Sono le 16:08 minuti di venerdì 10 febbraio 2012 e, come ce lo si aspettava, sono cominciate le foto della neve su Facebook. La neve ce la si aspettava da ormai una settimana, forse più, ma le foto quelle no. Cioè le foto si sperava sempre che ormai, arrivate una settimana fa con la prima neve dell'anno, così fossero a questo punto saltate, la conosciamo. E invece no, tutti i profili sono già carichi di foto di roba bianca che copre tutto, per cui neve che copre auto, neve che copre balconi, neve che copre strade e autostrade. Grazie mille. Abbiamo capito che nevica e abbiamo capito che vi piace fotografare la neve. A questo punto però basta, direi, no? Nel senso che sono più importanti quantomeno le notizie che arrivano ad esempio da Roma, e ringrazio Alessandro Marcotulli che, diciamo, è sensibile non solo per la sua provenienza romana, ma perché ha una famiglia là, e siamo in filo diretto col suo cognato che continua a mandargli SMS. L'ultimo SMS che arrivava dal cognato di Marcotulli da Roma era bufera. E insieme a questa notizia è un'ansa delle 2 del pomeriggio che dice la gente in preda al panico compra il sale, e io mi domandavo perché la gente a Roma comprasse il sale. Lo fa anche per usi non propriamente alimentari, per spargerlo davanti agli ingressi di casa o nei giardini. Si sono svuotati anche gli scaffali del pane che va letteralmente a ruba, e delle conserve. È il panico generalizzato, e aspettiamo quindi SMS dal cognato di Alessandro Marcotulli, che è l'unico che ci fa veramente sapere cosa succede a Roma. In realtà abbiamo creato anche un profilo su Twitter del programma, che è Voi Siete Qui, l'hashtag è Voi Siete Qui, e chiediamo quanta neve c'è e dove vi trovate. Niente foto, non fate come Laura Faggin che mi ha già mandato una foto sul profilo Facebook, e forse ha ragione Tiziano Bonini che dice che il contrappasso in questo caso sarebbe che tutti voi mi riempiste il profilo Facebook di foto della neve, ma anche no. Malvidia scrive: per ora qui a Roma poca, ma sta nevicando. E ancora Ignazio: neve zero ma tanto blizzard. E poi siamo tutti meteorologi, pronti via, siamo tutti meteorologi. E poi ancora Monica Parisi: Firenze è l'unico posto al mondo dove non è nevicato, no guarda, praticamente neanche a Milano, a parte qualcosa stanotte. Vito: al massimo un po' di pioggia. E ci fermiamo qui. 349-238-6666 se per caso niente foto ma volete dirci dove siete e cosa sta accadendo. Ma io ringrazio Otello qualche tempo fa si è messo lì e ha scritto una storia, ha fatto quello che fanno molte persone, che ringrazio come faccio sempre, e poi l'ha mandata a Voi Siete Qui @radio24.it. Otello è un poliziotto che ha fatto per 27 anni una cosa, poi ha cambiato, ne ha fatta un'altra, sempre rimanendo poliziotto, e poi a un certo punto si è semplicemente accorto che aveva sbagliato ed è tornato sui propri passi. E visto che opinione comune è quella che tornare indietro sia sbagliato, la puntata di oggi è invece un monumento a quello, è un monumento al fatto che ogni tanto tornare indietro probabilmente non è un errore. 349-238-6666. Martina mi scrive: lui era qui sotto casa mia ad aspettarmi. Quando pensavo che non sarebbe mai tornato, l'ho trovato qui, sotto la pioggia. Come in quelle scene dei film che le ragazze come me sognano, ma sanno benissimo che non si avvereranno mai. E invece lui è tornato indietro, dicendo che aveva strappato via troppo in fretta qualcosa di troppo importante. Siamo cresciuti, poi quello che sarà ancora non lo so. 349-238-6666. Claudio: cammino di Santiago de Compostela, sono da solo. Raggiungo il Sebriero, credo. Sebreiro, Cebreiro. Vabbè, avete capito. Il punto più alto del cammino. E dopo una ventina di giorni di marcia è 600 km sul groppone. La salita è costante ma non ripida. Raggiunto il santuario e acceso un cero alla Madonna, per ringraziarla probabilmente per esserci arrivato, devo iniziare a scendere, ma mi trovo su di un sentiero che invece improvvisamente sale. C'è qualcosa che non va. Io devo scendere, non salire. Devo aver saltato qualche freccia amarilla, qualche freccia gialla o qualche segnalazione. Non c'è anima viva, c'è poco da fare. Devo tornare indietro e cercare di imbroccare il sentiero giusto che scende. Dopo una mezz'oretta e una consultazione della preziosa guida riesco ad imbroccarlo. A volte è giusto tornare sui propri passi. Se la vostra strada saliva invece che scendeva e siete tornati indietro, 349 238 3899-2688-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Otello lo ha fatto e non ha sbagliato. Ogni mattina faceva bella mostra di sé, ferma, immobile, con il suo nome scritto in verde sulla fiancata bianca. Non solo aria. Non solo aria è il nome di una barca a vela, un quattro posti al massimo. Non solo aria mi tiene compagnia da circa 3 anni. La vedo ogni mattina quando vado dal lavoro. Poi la rincontro sui miei passi la sera, mentre torno verso casa. Sono passati quasi 3 anni da quando ho preso la decisione di lasciare il servizio operativo. Sono un poliziotto io, uno sbirro. Gli ultimi 27 anni della mia vita li ho passati in polizia sulle volanti, in strada. Gli ultimi 3, invece, li ho passati in un ufficio. A pulire la sedia con il sedere, per citare una frase da film poliziesco americano. Faccio parte di un gruppo che dove succedono le cose ci mandano. Quando senti dire mandati 100 uomini di rinforzo, se faccio parte di quel gruppo lì, che si chiama Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. La famiglia, i figli, la stanchezza fisica e psicologica, tutto questo mi ha indotto a chiedere l'assegnazione al servizio in ufficio. Nei primi tempi tutto era una novità e le cose scorrevano tranquille. Poi, piano piano, una certa agitazione ha cominciato a farsi sentire. C'era qualcosa che non andava. La mattina diventava sempre più difficile alzarmi, le giornate non passavano mai. Quando stavo alle volanti sono sempre andato al lavoro contento. Per me indossare la divisa prima di uscire di casa era un rito, un'azione che richiedeva i suoi momenti e i suoi movimenti precisi. La divisa sistemata sempre allo stesso modo sul letto, la penna e poi il distintivo da attaccare sulla manica della giacca, per ultimo il cinturone. Un'occhiata alle previsioni meteo e poi via, si parte. Ora invece in ufficio non è più la stessa cosa. Mi manca il coraggio necessario per tornare sui miei passi e soprattutto il coraggio di comunicare ai miei i tormenti in famiglia. Proprio ora che tutti si sono abituati alla mia nuova e regolare vita. Arrivavo alle 8, me ne andavo alle 2, eravamo in ufficio io e una mia collega carissima, una carissima amica, siamo diventati amici, mi ha sopportato per questi lunghi anni, per me lunghissimi. Chiunque compra un'arma veniva da me e mi faceva denuncia che era entrato in possesso di quell'arma. Noi controllavamo le armi, le armerie, tutto quello che riguardava le armi all'interno della provincia. Poi una mattina l'ho vista, non solo aria. Era visibile dalla strada, pensai che il proprietario l'avesse messa lì per venderla. Ogni mattina passavo davanti a quella barca. Mi vedevo al suo timone mentre affrontavo gli oceani. Proprio io che non capisco niente di vela o di barche. E arrivavo in ufficio contento, pensando che comunque anche non solo aria aveva avuto la sua carriera alle spalle. Chissà quanti viaggi e in quanti luoghi doveva essere stata. E ora invece era lì, anche lei, come me, ferma, immobile. Poi, una mattina, nei pressi del deposito delle barche, rallento come al solito, per buttarci un occhio. Ma non la vedo. Non solo aria, non è più al suo posto. Faccio inversione, me ne frega niente se arrivo in ritardo. Voglio vedere dov'è la mia barca. Ed eccola là, posizionata su dei blocchi molto più in basso, diciamo ad altezza uomo. C'è un operaio che ci sta mettendo mano. E mi domando che succede, se magari ritorna in acqua. Se non solo aria ritorna in acqua, anch'io posso tornare nel mio elemento. Qualcuno ha detto solo gli imbecilli non cambiano mai idea. E quindi a metà mattina di quella giornata avevo già consegnato la richiesta per tornare in strada. A casa pensavo peggio, mi hanno detto che si aspettavano che lo facessi prima questo passo, che la mia insofferenza si vedeva. Ora sono in attesa di iniziare il servizio, dopo 3 anni di fermo biologico. Stasera risalirò sulla volante. Piove, non ho visto le previsioni meteo prima di uscire. Non solo aria intanto è tornata al suo posto, visibile dalla strada, in attesa di trovare un acquirente che, egoisticamente, spero non arrivi mai. È stata completamente restaurata, bellissima. Sono tornati anche i miei riti prima di uscire di casa, solo che se ne è aggiunto uno nuovo. L'ultimo gesto prima di uscire è quello di mettermi in tasca una foto di quella barca, una foto di non solo aria. Still free. cosa capita anche a voi, ma quando trovo uno scrittore che mi piace, solitamente sviluppo una specie di monomania, per cui devo leggermi assolutamente tutto quello che ha scritto nella sua carriera. Qualche anno fa mi era capitata questa cosa perché avevo avuto tra le mani un fumetto di Andrea Pazienza. Era un vecchio numero di Zanardi, che forse è il suo personaggio più famoso. Se non ricordo male, si intitolava Verde Matematico. Rimasi assolutamente folgorato da quella storia, da quei disegni e dai personaggi. Decisi di aprire il mio personale monografico su Andrea Pazienza. È stata una raccolta molto lunga e faticosa, soprattutto se pensiamo che Pazienza ha avuto degli anni nella sua vita in cui era praticamente incontinente dal punto di vista artistico. Pubblicava un numero di storie, di disegni, di strisce assolutamente fuori controllo. Oggi ho una sezione della mia libreria che è interamente dedicata a lui. Mi mancano giusto un paio di cose che prima o poi comprerò. È un lavoro da collezionista lungo e faticoso di cui sono felicissimo. Nel caso voi aveste ancora oggi la fortuna di non conoscere Andrea Pazienza, io vi invito subito dopo il programma a uscire di casa, correre nella prima libreria e comprare tutto quello che riuscite a trovare di Andrea Pazienza. Uno dei suoi capolavori assoluti è, e si chiama, Le straordinarie avventure di Pentotal. E quando ho letto il racconto di Otello, quello sulla barca, su Non solo aria e sul fatto di tornare indietro oppure no, mi è subito venuta in mente una vignetta di questo libro. In questa vignetta si vede un uomo che è un po' sovrappeso, che sta arrivando saltellando dal fondo di una strada. Al suo fianco c'è un muro che porta questa scritta: mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa. È una frase che mi ha sempre fatto sorridere per il suo gusto del paradosso, che però ha anche un suo sapore pessimista, quasi disperato. Mai tornare sui propri passi, neanche se questo ci serve per fare qualcosa di forte come saltare. Perché è un po' nella logica comune, no? Nella logica comune delle cose, per una serie di luoghi comuni che non so da dove arrivino. Cioè, tornare sui propri passi è sempre visto come un errore. Anzi, peggio, è visto come un fallimento. Cioè, se non ce la fai a gestire una nuova situazione, è un problema tuo. Vuol dire che hai sbagliato qualcosa. E adesso l'ultima cosa da fare è sicuramente tornare indietro. Ci si impegna il doppio, si stringono i denti e si va avanti, sempre proiettati in avanti, sempre desiderosi di cambiare. Ce lo diciamo noi quando prendiamo una decisione definitiva per la vita e ce lo ricordano appena possono tutti gli altri. Voltare pagina, non guardarsi mai indietro. E invece io non sono sicuro che sia sempre vero. Ogni tanto si può ammettere di aver fatto un errore, no? Ogni tanto, mentre siamo lì a combattere per farci andare bene per forza le cose, possiamo tranquillamente avere la freddezza, avere la lucidità di ammettere a noi stessi che si stava meglio prima. E occhio, non è un si stava meglio quando si stava peggio, eh? No, è un'altra cosa. Otello, ad esempio, ha rinunciato alle volanti perché pensava di migliorare la sua vita. Lui ci credeva, ci sperava, lui e la sua famiglia. Poi però si è reso conto che non era per nulla così. Anzi, le cose stavano cominciando ad andare veramente male. E a quel punto la soluzione era una e una sola: ammettere di avere sbagliato. Infischiarsene dei luoghi comuni, delle decisioni che devono per forza di cose essere definitive, di quello che lui pensava che i suoi familiari pensassero, e già che c'eravamo, ha deciso di infischiarsene delle rincorse. Ha girato i tacchi ed è tornato indietro. The sun came up with no conclusions, flowers sleeping in their beds, the city cemetery's humming, I'm wide awake, it's morning. Mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa. Lo dicevo prima, questo era quello che pensava Andrea Pazienza nelle avventure di Pentotal, però devo dire che tra questa storia e la storia di Otello io decisamente per una volta devo andare contro, non contro Pazienza, però devo preferire la storia di Otello, che invece è tornato indietro e forse ha preso la rincorsa per tornare indietro. Pronto Otello? Pronto, buongiorno. Ciao, come stai? Bene. Tu hai preso una rincorsa di 3 anni praticamente per tornare indietro e fare quello che facevi da 22, 23, perché nelle volanti... Dall'84, diciamo. Dall'84, cioè, perché tu mi dicevi, sono 27 anni che sei in polizia. Sì. E quanti anni hai adesso, Otello? 48. Dai 21? Senti, hai fatto 24 anni sulla strada prima di entrare in ufficio. Sì, 24 anni. Quanto dura il turno proprio in orario, in ore di un poliziotto? No, 6 ore. Sono 6 ore, cioè quindi sì. I turni fissati che orari hanno? Dipende dalla tipologia del servizio, dal tipo di servizio. Diciamo, i lavoranti fanno un turno di H24 suddiviso per 6 ore, che vanno a coprire tutta la giornata. Senti, tu fai parte del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato. Sì. Che vale cosa significa? Cioè, cosa fate di specifico? Di specifico, diciamo, è come la banda, solo che la si fa in situazioni, diciamo, un territorio che non prende solo una città, ma può prendere diverse città. Oggi si sta in una città, domani in un'altra città, a seconda dell'emergenza. Tu dove operi in questo periodo? Dove sei? In questo momento proprio, specifico? Sì. Io vivo nel Salento. E quindi non ci puoi dire dove... Cioè, sì, in questo momento siamo a Roma. Ah, ok. Quindi tu ti sposti proprio per periodi più o meno lunghi? Più o meno lunghi, qualche giorno, 2 giorni, una settimana. E dove sei stato da quando hai cominciato a lavorare? E non mi ricordo, tante. Cioè, ma dappertutto? Ma parliamo di nord, sud, nord-est, nord-ovest? Sì, dappertutto. E quanto prima lo sai, scusami? Guarda, io la tecnica mia è quella di seguire il telegiornale. Cioè? Cioè, in base alle notizie del telegiornale... Poi con l'esperienza uno riesce a dire, ecco, adesso ci chiamano e dobbiamo partire. In base alle notizie, tu guarda l'escalation di Roma, della criminalità, di quello che sta succedendo a Roma, allora... Cioè, dove c'è più bisogno di forze dell'ordine, tu semplicemente lo capisci e immagini che ti manderanno lì. Sì, no? Perfetto. Sì, siamo... Quando si senti i famosi agenti di supporto, di rinforzo, sì, siamo noi. Siete voi. Senti, ma invece da un punto di vista proprio operativo, quotidiano, no? Cioè, quando tu sali in macchina ed esci dal garage o dal cortile della caserma o comunque o della base, della sede dove vi trovate, dove andate? Cioè, avete una pianificazione oppure avete delle zone? No, lo si sa già in anticipo. Cioè, prima all'atto di prendere il servizio sappiamo già quello dove andiamo a fare e cosa dobbiamo andare a fare. Ok, poi se c'è qualche chiamata eventuale... Sì, anche quello, c'è un po' di tutto. Senti, invece andiamo alla barca, è ancora là, giusto? Sì, perfetto, ogni giorno, quando lavoro giù nel Salento, quando passo la vedo, gli do un colpo di clacson. Senti, ma tu però non vai in barca, mi sembra di capire. No, assolutamente no. Assolutamente non ne capisco nulla. Però visto che tu nel tuo racconto la chiami la mia barca, no? Ed è bello il fatto che tu la senti tua per i tuoi motivi, perché l'hai sempre vista e perché di fatto è anche grazie a lei che hai deciso di prendere questa decisione importante per te, no? Perché non te la prendi tu? Perché non impari ad andarci? Ci vuole, per prendere una barca è un'impresa economica, a livello economico ce ne vuole. Perché è grande, non solo aria? No, 4 posti, però c'è tutta una serie di cose. Ci ho pensato, il pensiero mi si è girato attorno a questa cosa, tantissime volte, ma a livello economico è un'impresa, sia personale che con la famiglia, si impegna tutta la famiglia. Senti Otello, poi ti saluto, qual è la prossima tappa? Lo sai già o devi guardare ancora il telegiornale? No. Tra qualche giorno torno a casa. E allora ti ringrazio, ti auguro buon viaggio e grazie. Saluta non solo aria. Grazie, lo farò senz'altro. Ciao Otello, grazie ancora, buona giornata. Voi siete qui. Otello ci ha chiesto di scegliere tra 2 foto che ci aveva mandato, una era la sua e l'altra invece era quella della barca. Ed eccezionalmente per questa volta sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui, trovate la foto di un oggetto. E lei è la protagonista della storia, è quella che ha aiutato Otello a decidere di tornare indietro. È non solo aria, è una barca piccola, saranno attorno ai 7 metri, 7 metri e mezzo. È bianca con la striscia blu e la scritta verde non solo aria. È disalberata, cioè ha l'albero appoggiato sullo scafo ed è tenuta su da... è puntellata, insomma, è in secca. A occhio, ma un esperto saprebbe dire meglio di me, credo sia una barca tedesca, credo sia un Deller. 349-238-6666, intanto è venuta evidentemente la fissa a quelli che stanno in posti dove non nevica di scrivermi che non nevica, tipo in Sicilia ci sono 13 gradi, a Venezia non c'è la neve, e grazie. Però i messaggi che vorrei leggervi adesso sono quelli che stanno in luoghi in cui nevica e sono fieri. Adriano fra tutti, Adriano l'ha scritto sul profilo Facebook, è Matteo Caccia, io sono qui, e alla faccia, credo sia giovane, credo sia un ragazzino, scrive: ciao Matteo, siamo ad Ancarano, Abruzzo, immersi nella neve, intorno alla nostra casa casa 50 centimetri di neve. È magnifico e ti ringrazio Adriano per non aver caricato nessuna foto. Niente scuola, niente catechismo, niente scuola di pallone, niente di niente. Solo giocare in casa a pallone, a ping pong e battere mia madre a scopa. E naturalmente essere su Facebook. Ciao, buon lavoro a te, poveretto. Adriano, ti ringrazio per il messaggio e ti assicuro che ci sono lavori molto peggiori di questo. E poi... Turia, credo, forse non è un nome italiano, che dice a proposito del tornare indietro: ci vuole coraggio per tornare indietro. Mio padre è tornato a chiedere la mano di mia madre dopo 15 anni di divorzio e adesso siamo tornati ad essere una famiglia. 349-238-6666. Vi voglio leggere invece un pezzettino che ho preso da un libro, da un bel libro. È un libricino che si chiama Almanacco dei giorni migliori. L'autore è Fabio Rizzoli, che è un ragazzo che lavora, ragazzo, c'ha un anno più di me, quindi ormai è un anziano come me, che lavora nella comunicazione e altre cose. Ha pubblicato questo libricino in cui di fatto c'è un racconto al giorno. È come se fosse un calendario dell'avvento, però di tutti i giorni dell'anno e senza dover aspettare il Natale. E questo racconto in particolare, che è un racconto da leggere il 10 gennaio, e lo leggiamo oggi che è il 10 di febbraio, con un mese di ritardo, parla proprio del rimorso di guardare indietro ma non avere il coraggio di tornare indietro. Questo giorno d'inverno, non so perché, ma mi ricorda quando ero all'università e andavo fuori la sera con i miei amici. Tutta gente che adesso non vedo più, non so nemmeno che terra batta. Bevevamo molto, ci facevamo delle canne e pensavamo di stare benissimo. Intavolavamo discorsi molto confusi, soprattutto per il fatto che ci faceva sentire intelligenti e diversi dagli altri. È importantissimo a quell'età sentirsi diversi. Non puoi proprio sopportare il fatto di essere come tutti gli altri, devi per forza distinguerti. Battevamo tutte le osterie, specialmente quelle con le studentesse Erasmus. Da studenti nessuno di noi voleva mettere su famiglia. Non dico che usassimo il termine borghese per definirla, ma solo perché ci vergognavamo di quella parola. In realtà era quello che pensavamo. Quasi tutti eravamo proiettati verso l'estero. Immaginavamo carriere non meglio definite in tutti i paesi del mondo. Basta che non fosse l'Italia. Per quanto ne so, Federico è l'unico che se n'è effettivamente andato. Fa il ricercatore, mi pare, a Ginevra. Ci siamo mandati una mail poco tempo fa. Mi ha detto che sta benissimo, che lì è un'altra cosa, che lo Stato funziona e così via. Buon per lui. Sul serio. Non lo so, sarà questo tempaccio schifoso. Saranno proprio le mail con Fede. Ma oggi non riesco a pensare che ai miei giorni all'università. Mi sembrava che tutto sarebbe stato limpido un giorno o l'altro. Avevo la certezza che avrei saputo muovermi con disinvoltura in mezzo ai miei sogni. Guardavo con disprezzo le persone che avevano fatto scelte di vita comode. Io, che invece avrei percorso strade in salita, ma ricchissime di soddisfazioni. Non mi lamento di quello che è successo, eh? Però niente di paragonabile a quanto mi aspettavo. Anche i sogni, del resto, erano confusi, come i nostri discorsi da ubriachi. C'era comunque una specie di stupida purezza in quei momenti. Solo che te ne accorgi con molto ritardo, quando ormai non puoi più riacchiappare quelle sensazioni. È che nel corso degli anni si distribuiscono le forze in tante attività che cominciano a chiamarsi progetti. Manca gran parte dell'energia che in quei giorni di osterie serviva ad andare avanti a testa bassa. Le prime ipoteche su quel che siamo oggi cominciavano allora, ma nessuno di noi aveva la testa per pensarci. È un inverno balordo questo, pieno di ragioni per cui essere poco allegri. Tutto è più veloce, eppure sembra che le distanze siano diventate incolmabili. Non mi riesce di credere che mi sarà possibile spostarmi davvero da dove sono. E mi chiedo se anche Fede, guardando il lago, in questo momento a Ginevra, senta tutta questa immobilità. Told, but Se seguite il programma e avete Twitter, siete iscritti a quella cosa che è Twitter, in cui in 140 caratteri si scrivono delle cose che vi passano per la testa o che vi succedono davanti agli occhi, abbiamo cominciato da questa puntata a scrivere delle frasi del testo del programma sul Twitter del programma, che è Voi siete qui. Quindi basta che lo cercate e trovate tutto quello di cui vi sto parlando, dei pezzi del testo che io vi leggo tutti i giorni, li carichiamo su Twitter. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina che seguono questo e molto altro, grazie a Paolino Corleoni e a Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Otello e parlava di tornare sui propri passi. Quella di lunedì è la storia di Edmondo e parla di vulcani. Avevamo fatto un accordo con i ragazzi dell'agriturismo perché ci facessero da guida nell'escursione. Partimo la mattina dopo, verso le 11. Iniziamo la salita lungo una lingua di lava raffreddata, resto di una precedente eruzione. Questo perché, a detta del ragazzo, quel lato del vulcano era il più tranquillo e poi difficilmente il vulcano cola nuovamente sulle stesse colate. Ma perché parlare di colate e pericoli se il vulcano era spento?